Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Lunedì 31 gennaio, benvenuti di nuovo a tutte e tutti i nostri teleradioascoltatori su Liberi Dentro ed Eduradio TV, il programma che fa da ponte tra carcere e città. E come ogni giorno apriamo la settimana io, che sono Caterina, con Antonella Cortese. Ciao Antonella, buongiorno, bentornata. Buongiorno, ciao Caterina, buongiorno a tutti. E chiudiamo questo mese di gennaio che è stato intenso anche per le carceri, tra chiusure, riaperture. Purtroppo la pandemia richiede tanto rispetto delle regole, ma guardiamo subito il nostro giornale di oggi, le notizie di oggi, vediamo cosa troviamo. Leggo dall'agenzia dire.com questa notizia: carceri, Cartabia, mai più casi di violenza, il Covid un detonatore. E è una notizia interessante perché c'è stato il discorso in aula del Senato della nostra Ministra della Giustizia Marta Cartabia, una relazione sulla amministrazione della giustizia, quello che lei fa annualmente come reportage di ciò che accade nelle carceri. E naturalmente lei ha denunciato i problemi più gravi, che come al solito sono il sovraffollamento, che adesso in Italia ammonta al 114%, e la situazione indecorosa nelle carceri italiane, tra cui il caso di Sollicciano. Quanto al carcere, lei dice che la pandemia ha fatto da detonatore, quindi ha fatto esplodere questioni irrisolte da lungo tempo. Questi, dice, sono stati anni durissimi, tra le tensioni, le paure, le incertezze, l'isolamento che tutti abbiamo sperimentato, erano e sono amplificati dentro le mura del carcere. Per tutti, lei dice, per chi lavora in carcere e per chi in carcere sconta la sua pena, naturalmente. Caterina, ma che cosa ritiene sia necessario la ministra per farci carico fino in fondo dei mali del carcere? Lei pensa che sia necessario concepire e realizzare una strategia che operi su tre diversi livelli. Per esempio, gli interventi che sono improcrastinabili sulle strutture penitenziarie, accelerare le assunzioni di personale. Sappiamo che gli agenti di polizia penitenziaria, i mediatori, sono pochissimi, gli educatori anche. E poi chiaramente una più ricca offerta formativa per il personale in servizio e anche per potenziare le tecnologie, tanto sia per le esigenze di sicurezza sia per quelle di trattamento dei detenuti. Ma io ascolterei un pezzetto del discorso della ministra Cartabia e ritorniamo tra pochissimo. Tutti i problemi continua a essere il sovraffollamento. Ogni tanto ce ne dimentichiamo. I detenuti sono 54.329, vale a dire una percentuale di sovraffollamento del 114%. Il sovraffollamento è una condizione esasperante. Sovraffollamento significa maggiore difficoltà a garantire la sicurezza e significa maggiore fatica a proporre attività che consentano alla pena di favorire percorsi di recupero. Occorrono più spazi, occorre sviluppare le pene diverse dalla reclusione in carcere. E rieccoci, abbiamo ascoltato un pezzetto dal TG3 con appunto il discorso in Senato della ministra Marta Cartabia appunto sulla notizia che vi stiamo illustrando oggi. Caterina, tra i vari problemi che ci sono, e sono tanti, c'è anche quello dell'edilizia carceraria. E non è un mistero che le carceri italiane siano strutture vecchie e fatiscenti. In merito a questo c'è qualche novità? Lei ha riportato il caso del carcere di Sollicciano a Firenze, dove ha potuto vedere di persona le condizioni indecorose di questo come altri istituti, nonostante la manutenzione straordinaria in atto. E lei dice che è indecoroso, avvilente per tutti, e non a caso sono tantissimi anche gli episodi di autolesionismo, mentre questo 2022 purtroppo fino ad oggi registra già 5 casi di suicidio in carcere. Lei dice, ammette che vivere in un ambiente degradato di certo non aiuta i detenuti nel delicato percorso di risocializzazione e rende più gravoso e impegnativo anche il lavoro di chi varca tutti i giorni le porte del carcere stesso. Lei continua dicendo che va fatto un ripensamento dei luoghi dove viene trascorsa la pena, ecco, in modo che non siano soltanto dei contenitori di persone, ma degli ambienti ricchi di proposte, come attività culturali, soprattutto lavorative, e perché solo così si assolve il valore costituzionale della pena, che non può essere soltanto un tempo di attesa, ma di ricostruzione. E in questa prospettiva a lei piace anche ricordare il fatto che si sono finalmente mossi i lavori della Commissione sull'architettura penitenziaria, che farà uso delle risorse del cosiddetto PNRR, ovvero il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è stato preparato per l'Italia dopo la pandemia da Covid-19, per il triennio 2021-2023. Bene, questo ci fa ben sperare, ma un altro grande tema è quello del sovraffollamento, al 114% in Italia. Sì, è salito perché chiaramente era sceso un pochino nel 2020, dopo la chiusura totale dovuta alla pandemia e in molti casi di scarcerazione oppure detenzione ai domiciliari, poi adesso di nuovo aumentato, ed è una contraddizione questa, una condizione che esaspera i rapporti tra i detenuti e li rende anche il personale di polizia penitenziaria e rende anche gravoso il lavoro per gli operatori penitenziari. Lei spera che con l'attuazione della legge delega in materia penale si sviluppino forme di esecuzione della pena diverse, alternative al carcere e soprattutto in riferimento alle pene detentive molto brevi. E questo chiaramente darà sollievo alle troppo congestionate strutture penitenziarie. Lei non è soltanto una speranza della ministra Cartabia, sta operando per questo, per l'attuazione di questo piano. Quindi speriamo, le facciamo l'in bocca al lupo e lanciamo una canzone, Fabrizio Moro, Portami via, e ci rivediamo tra pochissimo. Tu portami via dall'ostilità dei giorni che verranno, dai riflessi del passato perché torneranno, dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria. Tu portami via dalla convinzione di non essere abbastanza forte quando cado contro un mostro più grande di me, consapevole che a volte basta prendere la vita così com'è, così com'è, imprevedibile. Portami via dai momenti, da questi anni invadenti, ogni angolo di tempo dove io non trovo più energia. Amore mio, portami via. Tu portami via quando torna la paura e non so più reagire, dai rimorsi degli errori che continuo a fare, mentre lotto a denti stretti nascondendo l'amarezza dentro una bugia. Tu portami via se c'è un muro troppo alto per vedere il mio domani, e mi trovi lì ai suoi piedi con la testa fra le mani. Se fra tante vie d'uscita mi domando quella giusta, chissà dov'è, chissà dov'è. È imprevedibile. Portami via dai momenti, da tutto il vuoto che sei, dove niente potrà farmi più del male, ovunque sia, amore mio, portami via. E rieccovi, bentornati dopo la pausa musicale, siamo sempre su Liberi Dentro e Duradio TV e con Antonella Cortese continuiamo la nostra rassegna di notizie. Parliamo di Thich Nhat Hanh, questo monaco buddista vietnamita che ci ha lasciato da pochissimo, vero? Sì, sì, purtroppo il 21 scorso ci ha lasciato Thich Nhat Hanh, che è come hai detto tu, è un monaco buddista, considerato il più popolare maestro zen, o comunque maestro buddista, per decenni costretto all'esilio per il suo impegno pacifista. È morto in un tempio in Vietnam, dove aveva fatto ritorno qualche anno fa. La notizia del decesso del religioso, che aveva ben 95 anni, è stata data dal Plum Village, uno dei tanti monasteri che aveva fondato, e lo piangono un po' tutti, dall'Unione Buddista Lubi, con grande dolore, ma abbiamo sentito anche tributi da parte tipo di Vito Mancuso, cioè ci sono molte personalità di non necessariamente buddiste che hanno voluto spendere, diciamo, una parola per questo grande maestro. Ma sappiamo che lui ha anche viaggiato molto, ma dove viveva? Allora Caterina, intanto ti dico che nel 2014 ebbe un ictus che lo lasciò semiparalizzato e incapace di parlare. E Thich Nhat Hanh nel 2018 aveva fatto ritorno finalmente nel tempio vietnamita Tu Yeu, dove a 16 anni aveva iniziato, penso, un po' il suo percorso di studi. E poi è stato in esilio una vita, come ho detto poco fa, dopo che nel 1966 il governo vietnamita gli ha impedito di fare il ritorno nel paese d'origine a causa appunto delle sue posizioni pacifiste. C'è da dire che non si schierò mai con nessuna delle parti in conflitto e attraverso un movimento che si chiama Piccoli Corpi di Pace giunse nelle campagne per creare scuole, ospedali, costruire villaggi bombardati, nonostante subissero attacchi da entrambi i contendenti, penso un po' ai Vietcong da una parte e gli americani dall'altra, poiché li ritenevano alleati del proprio nemico. Comunque, solo nel 2005, dopo ben 39 anni di esilio, ha potuto far ritorno per 3 mesi in Vietnam. Il monaco buddista ha quindi passato tutti questi anni in esilio, fondando, come ti dicevo, la rete di monasteri Plum Village. Il più grande è situato in Francia, vicino Bordeaux, e conta circa 200 monaci e monache. E pensa che prima della pandemia era visitato da migliaia di ospiti. E Thich Nhat Hanh è il fondatore di quello che lui stesso ha definito il buddismo impegnato, cioè un buddismo che vuole essere di supporto alla pace, alla giustizia, alla lotta al riscaldamento globale. Infatti era un grande ambientalista. Ma il suo approccio non fu mai ideologico, questa è la cosa interessante. Lui partiva sempre dall'interno, dall'uomo, da se stesso. Pensa un po' che un giorno un ragazzo gli disse che voleva battersi assolutamente per i diritti umani, gli chiese consiglio su come muoversi. Il maestro fece i suoi usuali 3 respiri e disse: come vanno le cose a casa con i tuoi genitori? Il suo invito quindi era sempre quello di tornare a sé, fermarsi e guardare in profondità, prendersi cura dei semi negativi, guarendoli, e prendersi cura dei semi positivi, innaffiandoli. In ogni caso, anche di fronte ai drammi dell'umanità, lo sguardo era sempre rivolto a ciò che ciascuno porta nel mondo. Infatti, subito dopo l'attentato delle Torri Gemelle, parliamo del 2001 ovviamente, l'11 settembre, la sua presa di posizione gli fece guadagnare il soprannome di l'altro Dalai Lama, proprio perché il giorno dopo, cioè il 12 settembre, radunò 3.000 persone a Manhattan nella Riverside Church. E c'è da dire che Thich Nhat Hanh passava la maggior parte del suo tempo nel monastero quando non aveva incontri, conferenze nel mondo. I monasteri, come vi dicevo, sono diffusi un po' dappertutto, in Germania, Australia, Thailandia, Hong Kong, Stati Uniti. È anche autore di tantissimi libri, e molti dei quali in inglese, sul concetto principalmente della consapevolezza, sviluppata con la pratica appunto della meditazione. E una condizione, questo è da chiarire, che non porta all'isolamento, ma al contrario a un ruolo più attivo nel mondo. Infatti le sue parole sono queste: la meditazione non è una fuga dalla società, ma è un tornare a noi stessi e vedere che succede. Una volta che si vede si deve agire, bisogna mettersi in azione e con la consapevolezza sappiamo cosa dobbiamo e non dobbiamo fare per aiutare. E anche noi abbiamo un piccolo progetto con Liberation Prison Project, che tutte le settimane è con noi, liberi dentro le radio TV, per parlare di consapevolezza. Esatto, e ringraziamo anche Liberation Prison Project che fa questa rubrica stupenda sul buddismo e voglio anche ricordare che c'è questo libretto meraviglioso che si intitola Libero ovunque tu sia ed è un discorso tenuto proprio da Thich Nhat Hanh al penitenziario di Stato del Maryland, dove lui dà piccole indicazioni per vivere meglio, prendersi cura di se stessi, coltivare la propria libertà, prendersi cura anche della propria rabbia. Ma cosa dice lui della morte, per esempio? Guarda, qualche anno fa tenne un ritiro sul vivere e il morire. Per 21 giorni parlò incessantemente della vita. L'ultimo giorno disse davanti al pubblico in attesa: ma ora vi chiederete cosa succede quando moriamo? Devo darvi una buona notizia, non moriamo. E spiegò che abbiamo paura della morte perché spesso pensiamo che una volta morti diventeremo il nulla. In realtà, così come dice la scienza, nulla si crea, nulla si disperde e tutto si trasforma. Voglio soltanto leggervi le ultime parole che ci fanno capire proprio la sua modalità di interpretare la vita e la morte. Dice: domani continuerò ad essere, ma dovrai essere molto attento per vedermi. Sarò un fiore o una foglia. Sarò in quelle forme e ti manderò un saluto. Se sarai abbastanza consapevole, mi conoscerai e potrai sorridermi. Ne sarò molto felice. E adesso, proprio per rimanere su questo mood, ci ascoltiamo Una mattina di Ludovico Einaudi e poi non andate via perché ci sarà l'intervista a Fabienne Lang, volontario del carcere di Ferrara e presidente dell'Associazione Interculturale Universo. Bentornati a una nuova puntata di Libri Dentro Edu Radio. Per la pillola di oggi siamo insieme a Fabienne Lang, il volontario all'interno del carcere di Bologna della Dozza. Parleremo insieme a lui di come ha iniziato a diventare proprio volontario all'interno del carcere e quali sono stati i primi approcci insieme alle persone detenute. Buona pillola. Ciao Fabienne, allora innanzitutto spiegaci quando ti sei avvicinato alla sfera del carcere e quali sono i motivi che ti hanno spinto poi a diventare un volontario. Il mio avvicinamento al carcere è stato casuale e intenzionale. Casuale perché quando mi sono iscritto alla facoltà di scienze politiche, al corso di laurea in cultura e diritti umani, il mio professore Pier Cesare Bori, fra le attività che proponeva come attività concreta della garanzia dei diritti umani, c'era il progetto in carcere. In più di questo, nella mia famiglia, mio fratello grande era un ladro, quindi quando ero piccolo in Africa, in Camerun, mio fratello ha fatto tanti carceri in Camerun, però dall'altra parte mio fratello, come lo conoscevo, era una persona buona, una delle persone più buone che conoscevo al mondo, quindi quando il prof ci introdusse l'idea del carcere, io avevo anche la profonda consapevolezza che chi era in carcere potevano essere delle persone buone come mio fratello, perché capitare in carcere poteva essere stato un inciampo nel percorso della loro vita, come mio fratello era inciampato diverse volte. Quindi quando Pier Cesare Bori ci propose di andare in carcere ogni venerdì, subito mi sono accodato al progetto e ho cominciato ad andare con lui. Così mi sono avvicinato al carcere. Adesso una piccola pausa per noi, ci ritroviamo presto dopo lo stacco musicale. منك نتعلم انت معلم واحنا منك نتعلم نس نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم وما تسمع اللي يخدعك انت معلم وما تسمع اللي يخدعك انت معلم hey! نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم معلم مضرب الإشارة تعرف نبض الحرارة مضرب الإشارة تعرف نبض الحرارة انت في الحب عبارة خلي لاقل حيارة انت انت عبارة خلي لاقل حيارة واللي خلاك ما يفهم يجي يوم دباين دم واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم او ما تسمع اللي يخدعك انت معلم اسمع اللي يخدعك انت معلم انت معلم واحنا منك متعلم والله انت معلم واحنا منك متعلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم I want you to all say it with me. معلم تستاهل طيارة لا طيارة شوية علي تستاهل طيارة لا طيارة شوية علي تطير انت في العالي ما نوصل لك يا غالي تطير انت في العالي ما نوصل لك يا غالي انت معلم لا لا تسمع اللي يخدعك انت معلم hey! والله يا معلم Eccoci tornati dopo un breve stacco musicale, ritorniamo a parlare insieme a Fabian Lang di volontariato in carcere. Parlaci invece anche dei percorsi di formazione in carcere a Ferrara, cioè in cosa consistono e come sono organizzati nel concreto. Ok, a Ferrara, il progetto a Ferrara ho cominciato a realizzarlo dopo una decina di anni che facevamo già il progetto al carcere di Bologna. E dico ho cominciato io perché quando abbiamo impostato il progetto di Ferrara non c'era già più il professore Pier Cesare Bori, il gruppo di Bologna lo dirigevo io, quindi fui contattato da Agire Sociale, che è un'associazione di Ferrara, per formare dei volontari che avrebbero poi potuto fare un progetto al carcere di Ferrara. Dopo una serie di incontri con un gruppo di volontari, finito il corso dove facevo da docente, abbiamo deciso di impostare un gruppo di lettura laica all'interno del carcere di Ferrara e si sono uniti a me una decina di volontari e ci siamo organizzati in turni e ogni martedì andavamo al carcere di Ferrara e per la precisione andavamo nella sezione Z, dove effettivamente partecipavano una decina di detenuti e l'attività consisteva nella lettura dei testi. Nella lettura dei testi noi arrivavamo con dei testi che avevamo scelto intorno a degli argomenti che riteniamo che possono essere utili per qualcuno che sta ripensando la propria vita. Ad esempio parlavamo delle speranze, parlavamo dell'amore, parlavamo della famiglia. Quindi portavamo in generale un testo e dopo la lettura del testo lasciavamo l'opportunità a ciascun membro del gruppo di reagire in base a quel testo e come quel testo poteva essere stato importante nella sua vita precedente ed eventualmente nella vita futura che si stanno impostando stando in carcere. Il progetto è andato avanti per circa 2 anni. È stato molto positivo perché ogni martedì quando arrivavamo c'erano già lì all'ingresso della porta a aspettarci i detenuti del nostro gruppo. Purtroppo per motivi amministrativi il progetto dopo 2 anni è stato sospeso e ci siamo ripiegati al nostro progetto che è a Bologna, però con i detenuti della sezione Z del carcere di Ferrara abbiamo continuato a comunicare, a mandare delle cartelline, a mandarci delle lettere. Comunque, anche se è durato solo 2 anni, noi riteniamo che quel paio d'ore che facevamo con i detenuti era un'opportunità che gli dava una boccata d'aria. Era un'opportunità per loro di parlare con qualcuno che veniva fuori, era un'opportunità per loro di sentirsi considerati, non abbandonati, di sentirsi dati l'opportunità per un giorno rientrare in società una volta che sarebbe finito il loro calvario in carcere. Così. Quindi fino ad oggi, anche se sono passati un po' di anni dalla sospensione del progetto, continuo a ricevere lettere da detenuti e salutazioni, il che mi fa pensare che è stato ottimo l'intervento. Anche per oggi la nostra pillola di libri dentro Duradio termina qui, ma noi ci ritroviamo settimana prossima sempre insieme a Fabian Lang per parlare ancora di volontariato all'interno del carcere con le persone detenute. E rieccovi, bentornati, ci salutiamo con l'annuncio delle nostre rubriche nella mezz'ora successiva. Abbiamo teatro oltre le sbarre con l'intervista del nostro Paolo Aleotti a Elena Pilan e poi una nuova rubrica che si intitola Diari di Bordo e pensate a cura di due librai indipendenti, Alice Piso e Antonello Saiz, e ci daranno dei consigli di lettura. Scriveteci redazione liberidentro@gmail.com e come al solito un saluto da me che sono Caterina, Antonella Cortese, Paolo Aleotti, Enea Flacco, Diana Bota, ci rivediamo domani. Grazie a tutte e tutti. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.